in primo piano. Una buona giornata da Laura Bettini, ben ritrovati per questa rassegna stampa. Abbiamo una mezz'ora nella quale percorreremo insieme le prime pagine dei quotidiani e per quanto possibile leggeremo anche qualche approfondimento dalle pagine interne. Passiamo subito alla prima pagina del Sole 24 Ore. Oggi sono tutte un po' variegate, diciamo, come scelte di apertura. Vedremo il Sole 24 Ore sceglie il bonus facciate, maxi sconto sul risparmio energetico, dalle entrate le istruzioni sulla detrazione del 90%, premio anche alle imprese, con un intervento esteso scatta anche l'obbligo di riqualificazione verde, leggiamo, ammesse opere sulle parti esterne visibili, beneficio escluso per i lati interni invece. Fotonotizia, idrocarburi e rinnovabili, questo è il tema. La piattaforma offshore di Edison a Pozzallo in Sicilia, Edison torna sul dossier F2I e punta sulle rinnovabili, e c'è un'intervista all'amministratore delegato del gruppo Nicola Monti. Due approfondimenti a centropagina che rimandano poi alle pagine interne sulla questione allargata, diciamo così, del coronavirus all'economia. 4 miliardi è il valore annuo in euro dell'export italiano verso la Cina delle aziende attive nei settori relativi alla meccanica strumentale e alle attrezzature. Un valore che ora come ora sembra destinato a diminuire a causa del diffondersi del coronavirus. E leggiamo poi da Sole 24 Ore che il Made in Italy, alimentare, farmaci e moda, traina l'export 2019, la meccanica invece è bloccata dalla epidemia. E poi c'è un altro approfondimento, sempre appunto relativo al coronavirus, riguarda le auto. Dalla Cina non arrivano più forniture, gli impianti FCA in Serbia fermano la produzione. L'Italia da sola acquista dalla Cina componenti auto per circa 1 miliardo di euro all'anno. Lo stabilimento FCA di Kragujevac in Serbia nel 2019 ha prodotto, secondo fonti locali, circa 40.000 unità del modello Fiat 500L. Questo sul Sole 24 Ore. A proposito di food, come ogni sabato c'è un approfondimento sul tema. Meno carne, più bevande, così cambia la spesa in Italia. E andiamo a Repubblica. Repubblica sceglie un'apertura dedicata più alla politica, come del resto poi farà anche il Corriere della Sera. Renzi frena, Conte no, il premier non si fida più di Italia Viva e pensa a un piano B con l'appoggio dei dissidenti renziani. Il Quirinale, se tutto precipita si va alle urne ma solo in autunno. La Sardina Santori, troppi bombaroli. C'è poi un sondaggio Demos che indica Lega in calo, Meloni raggiunge i 5 Stelle, il PD oltre il 20%. Questo è il riassunto della giornata di ieri sotto il cappello crisi congelata su Repubblica. L'Agicom punisce la RAI, non rispettato il pluralismo, questo è un altro tema che vedremo di approfondire e che Repubblica porta in prima pagina. Si arriva a una multa da... scusate che riapro, 1,5 milioni per la violazione appunto alla per le violazioni che vengono così contestate alla RAI per scarso pluralismo, tra l'altro, ma leggeremo appunto più nel dettaglio. Poi dalla prima di Repubblica ancora treno deragliato, altri 10 scambi sotto indagine, 11 pezzi gemelli, come quello del disastro ferroviario di Livraga. Ci sono altri 10 attuatori prodotti dalla Alstom nello stesso lotto, 10 sono stati individuati e sequestrati, l'undicesimo non si sa ancora dove sia. La ricognizione in tutta Italia è partita, così Repubblica. Corriere della Sera, apertura con una fotografia della partenza dalla Cina di Niccolò, il ragazzo italiano di 17 anni che abbiamo sentito abbondantemente nei giornali radio, è bloccato da giorni a Wuhan, aveva la febbre, ma adesso è riuscito a partire, anzi dovrebbe atterrare tra poco l'aereo che lo ha riportato in Italia. E qui la fotografia invece della partenza con questa barella speciale con la quale appunto è stato trasportato fino all'aereo, poi non so se dentro l'aereo è rimasto lì comunque questo è il modo in cui è arrivato all'aeroporto ed è stato issato, direi proprio, sul aeroplano. Il virus avanza, primo caso anche in Cina, ci dice il Corriere della Sera, primo caso in Africa, la conferma arrivata dal Ministero della Salute, proprio mentre in Cina i morti sono arrivati a 1.400, i contagiati sfiorano i 65.000 casi. Centro pagina del Corriere della Sera, governo, segnali di tregua, il leader di Italia Viva, cioè Renzi, è ora di parlare d'altro, la ministra Bellanova dice la sfiducia a buona fede, non è all'ordine del giorno e il premier risponde non ho problemi con Renzi, non penso a un Conte Ter, anche se di Conte Ter già si parla abbondantemente come abbiamo sentito nei GR e come leggeremo poi tra poco. Andiamo al giornale, preparatevi al Conte 3, il premier nega ma il suo portavoce lo smentisce, pronto il terzo esecutivo dell'avvocato, rivoluzione fisco, chi paga il medico in contanti non può dedurre, accorpa così il giornale tutte le questioni nella apertura. Sempre dalla prima del giornale troviamo scandalo sexy in Francia, in mutande Macron, foto rubate al candidato di En Marche, una apparente piccola vicenda che punta però a un obiettivo grosso, Macron. Così potremmo commentare l'uscita di scena di Benjamin Griveaux, candidato del partito del presidente alle elezioni per il comune di Parigi, dalla morte del presidente Faure nelle braccia di una prostituta all'Eliseo nel 1899 fino a Hollande, pizzicato in scooter. E qui si ripercorrono a partire dalla prima e poi nelle pagine interne con Marco Gervasoni una serie di diciamo fuitine scappatelle di uomini politici di spicco di primo piano francesi. Quotidiano nazionale, quindi tutti i quotidiani del gruppo, il piano per rimpatriare le imprese, il titolo di apertura, giù l'IRES e altri sconti, così il governo cercherà di riportare a casa la produzione, molti big sono già tornati. Al centro pagina, i medici eroi già sei morti, aumentano i dottori vittime del virus a Wuhan e in Africa c'è il primo contagio, fine dell'incubo cinese per Niccolò, oggi arriva a Roma, andrà in quarantena allo Spallanzani. Sulla prima del quotidiano nazionale, come del resto ho dimenticato di leggervelo sulla prima del giornale, ci sono polemiche e decisioni del sindaco di Salò. Il duce, Salò e la storia che non si cancella. La polemica sulla conferma alla cittadinanza. Salò infatti non cambia idea e il duce resterà cittadino onorario. La motivazione è appunto quella che vi ho detto. La storia non si cancella, ha detto il sindaco. Messaggero, governo, battaglia sui transfughi, il premier, non voglio il Conte Ter, grandi manovre per arruolare renziani e responsabili. Renzi dice, se vuole ci cacci, sfiduceremo buona fede e lavora per sfrattarlo da Palazzo Chigi. Centropagina, il virus in Africa, un caso in Egitto, l'OMS, sistema sanitario debole e questo è il timore ovviamente di tutti. Ma sul sistema sanitario di molti paesi africani, chiaramente non tutti, le situazioni sono differenziate, ma alcuni sicuramente hanno delle carenze che possono sollevare preoccupazioni nel contenimento del contagio. Sulla prima del Messaggero c'è un tema che viene ben evidenziato e di cui non si parla certo sulle prime degli altri quotidiani, ovvero l'asilo obbligatorio in classe a 3 anni. Il Ministero dell'Istruzione prepara la rivoluzione. La scuola è una cosa da bambini, tutti in classe all'età di 3 anni e la materna diventa obbligatoria. Sui tavoli della maggioranza, ci fa sapere il Messaggero, ci sono infatti le carte per mettere a punto il piano che rivoluzionerà la scuola dell'obbligo. Oggi parte dall'età di 6 anni, a breve l'ingresso potrebbe abbassarsi ai 3 anni. Un progetto che andrebbe a cambiare completamente la visione della scuola dell'obbligo. Anche se oggi in Italia la scuola dell'infanzia non è garantita a tutti, resta ancora fuori un 5% dei bambini perché non rientrano nei posti disponibili e questo ben lo sappiamo, soprattutto ben lo sanno i genitori che i posti non sono per tutti e c'è un po' da lavorare sul fronte prima di imporre la scuola a 3 anni a tutti. Su Avvenire, il piano inclinato dal governo, un progetto per il mezzogiorno con i fondi europei finora inutilizzati, ma la maggioranza resta in bilico. Il premier conta sulla riserva dei responsabili. Renzi sull'Aventino, siamo alleati, non sudditi. Conte dice niente ter, ho un programma da realizzare. E così Avvenire per quel che riguarda la parte politica italiana, ma l'apertura, diciamo, con fotonotizia è dedicata a tutt'altro tema. Vaticano-Cina, l'intesa fa un altro passo avanti. Per la prima volta si incontrano i due ministri degli esteri, dialogo per la vita della Chiesa e il bene dei cinesi. È accaduto a Monaco di Baviera un cordiale colloquio tra i ministri degli esteri, cioè l'arcivescovo Gallagher e Wang Yi. C'è la volontà di proseguire il dialogo istituzionale per favorire la vita della Chiesa e il bene del popolo cinese. Questo è chiaramente un incontro storico cui Avvenire dà molto spazio anche nelle pagine interne. E poi un altro tema tipicamente caro ad Avvenire, ma anche a Radio 24, l'azzardo, una pandemia da 1.830 euro a testa, leggiamo, puntati 110 miliardi, allarme rosso in particolare in Abruzzo e Campania. In sostanza, prima di dare la linea al traffico, leggiamo che in media ogni italiano, novantenni, ultranovantenni, neonati, tutti compresi, in media ogni italiano ha un consumo lordo di gioco d'azzardo pari a 1.830 euro in un anno, significa 152 euro al mese per tutti, quindi è chiaro le cifre delle quali stiamo parlando. Diamo spazio al traffico e proseguiamo tra pochissimo. In primo piano. Ancora una buona giornata da Laura Bettini, andiamo avanti sulle pagine del Fatto Quotidiano. Poltrona viva, questo è il titolo sulla fotografia di apertura che rappresenta un Renzi legato proprio agli scranni. Arrivano le nomine, meglio stare a tavola. 6 anni dopo l'Enrico stai sereno, Renzi ritira i ricatti a Conte, vota tutto, stretto tra responsabili e pentiti. E così il Fatto Quotidiano, su cui troviamo anche spazio ovviamente alla questione della manifestazione oggi contro la restaurazione e i privilegi dei parlamentari, vitalizi, Movimento 5 Stelle in piazza, retromarcia Casellati. Scrive il Fatto Quotidiano, dopo le dimissioni da capo, Di Maio sarà sul palco e ora la Presidente del Senato propone di azzerare la Commissione in conflitto di interessi. E troviamo poi dentro una intervista a questo proposito a Giancarlo Cancellieri, grillino della prima ora, candidato e sconfitto 2 volte alla presidenza della Sicilia nel governo Conte 2, è viceministro alle infrastrutture e ai trasporti. E oggi sarete in piazza, chiede Tommaso Rodano, sarete in piazza in difesa del taglio dei vitalizi, una bandiera del Movimento 5 Stelle. Non è solo una bandiera, è la risposta, ma è una legge voluta dagli elettori. Sui vitalizi abbiamo ricevuto un mandato specifico, al contrario di chi vorrebbe tornare indietro con una fronda. Tra tagli e vitalizi pare che abbiate una missione, punire i parlamentari. Perché ce l'avete con le istituzioni? Al contrario, risponde, vogliamo permettere ai cittadini di guardare alle istituzioni con fiducia. I miei genitori hanno lavorato per 40 anni per avere la pensione. In Parlamento c'era intanto gente che si è presentata una volta in 5 anni e ha percepito un ricco assegno. Riparare questa ingiustizia diminuisce la diffidenza verso le istituzioni. È però, chiede il giornalista, a giudicare da elezioni e sondaggi, le battaglie anticasta non servono. Forse i vostri elettori si aspettano altro. Da sole non bastano, ma noi non abbiamo fatto solo quello. Reddito, quota 100, investimenti. Un esempio, nel 2020 il 52% degli investimenti di ANAS saranno nel Sud Italia. Non era mai successo. Insisto, il consenso è diminuito. Perché? Abbiamo commesso degli errori, non solo comunicativi, abbiamo fatto talmente tanto in 2 anni che è come se ci fossimo sentiti svuotati. Ma ora ci stiamo mettendo in discussione. Voglio dirlo a tutti quelli che recitano il De Profundis del movimento, mi dispiace, non succederà. Gli Stati Generali di marzo ci aiuteranno a mettere a fuoco gli obiettivi a partire da 2 battaglie identitarie sulle quali non stiamo indietreggiando: prescrizione e concessioni autostradali. E così sul Fatto Quotidiano Giancarlo Cancelleri. Libero, l'apertura, Conte, non temo che il governo cada. Replica di Libero, noi temiamo che stia in piedi. Renzi prova a far fuori il premier, ma Casalino rivela ci sarà un Giuseppe Ter, nessuno vuole andare a casa. Sempre dalla prima di Libero, intanto 1500 lavoratori perdono il posto, c'è una crisi aziendale al giorno, la compagnia Air Italy invia le lettere di licenziamento, l'esecutivo non sa più che cosa fare. E così Libero, il manifesto non sta né in cielo né in mare, anche qui si parla di Air Italy, pronte le lettere di licenziamento per tutti i 1450 lavoratori di Air Italy, il governo convoca sindacati e regioni, Sardegna e Lombardia, non i commissari per evitare la liquidazione. E intanto le voci di crisi della compagnia dei traghetti accentuano il dramma dell'isola. Manifesto, Conte a caccia dei responsabili, altro tema su cui si discute in apertura, con Renzi scontro rimandato, un audio di Casalino, ci sarà un Conte Ter, i dubbi del PD. Andiamo alla verità, l'unica crisi di Renzi è da fame di poltrone, così la verità, il governo traballa ma per ora non cade. Cosa vuole il leader di Italia Viva? Rompere e andare all'opposizione non gli conviene, votare men che meno. Dietro il suo trambusto sulla prescrizione non ci sono battaglie ideali, ma la smania di avere più caselle per il suo partitino nelle prossime nomine di Stato. Il rottamatore è un altro problema, il consigliere del Premier sui posti chiave è D'Alema. Sempre dalla verità, il coronavirus in Africa, chiudete i porti, questa è una delle battaglie che sentiamo ripetere più spesso, primo caso accertato in Egitto, la linea dura sugli sbarchi, non è razzismo ma pura necessità, che però uno che arriva in barca, insomma già probabilmente il virus conclamato. Comunque, poiché abbiamo ancora pochi minuti, andiamo subito alle pagine del Secolo XIX. Il Premier non penso a un Conte Ter, questa è l'apertura, ma ci riporta poi alla cronaca di Genova, in particolare con la fotonotizia di una manifestazione che si è svolta ieri, Ponte Morandi, la protesta dei familiari delle vittime, manifestazione davanti alla sede di Autostrade a 18 mesi dal crollo. Questa è una delle notizie. Poi nelle pagine interne si ricordano anche alcuni dei marinai che sono a bordo di quella nave che è trattenuta in quarantena a largo del Giappone, la Diamond Princess, perché ci sono almeno un paio di genovesi su questa nave, quindi ovviamente il quotidiano di Genova è interessato a mantenere i contatti con loro ed ha più frequenti contatti con loro tramite i parenti, quindi per chi fosse incuriosito, appunto qui sul Secolo XIX nelle pagine interne oggi si descrive un po' la vita di queste persone che sono effettivamente recluse su questa nave che sarà pur di lusso ma è pur sempre insomma una gabbia quando si è costretti a stare in cabina o a fare poche ore d'aria al giorno. Andiamo, riprendiamo un po' dalle prime pagine del Sole 24 Ore in questi ultimi minuti, perché c'è un'analisi di Vittorio Carlini e Moria Longo sul perché le borse snobbano l'epidemia, perché insomma le borse alla fin fine, nonostante ci siano tanti segnali negativi di cui abbiamo detto, non arrivano più le forniture dalla Cina, non ci sarà un turismo sui livelli che erano quelli attesi per il 2020, la meccanica bloccata dall'epidemia, eccetera, eccetera. Beh, insomma, le borse sembrano snobbare tutto questo e vanno tutto sommato bene. Perché, si domandano Carlini e Longo? Beh, i motivi di questa strana reazione, giusta o sbagliata che sia, sono almeno quattro, scrivono. 1. L'opinione diffusa sui mercati è che il virus avrà un impatto solo temporaneo sull'economia. 2. Le banche centrali continuano a sostenere il mercato. 3. Gli investimenti sono sovraesposti sul mercato obbligazionario, che ormai offre rendimenti ridotti all'osso, per cui saranno costretti a investire in borsa. 4, ormai i mercati sono dominati dagli algoritmi che hanno, sembrerà banale, meno emotività degli esseri umani. E qui poi sì, per ciascuno di questi quattro motivi c'è una ampia descrizione che purtroppo nei 2 minuti meno che restano a questa rassegna stampa non abbiamo modo di leggere, ma che troverete appunto su Sole 24 Ore. Accanto sostanzialmente da pagina 6 a pagina 7 del Sole 24 Ore leggiamo rapidamente dello scarso pluralismo che porta la maxi multa alla RAI. Sanzione da 1,5 milioni per la violazione e diffida sui prezzi pubblicitari. Mancato, ne scrive Andrea Biondi, mancato rispetto da parte di RAI dei principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo all'interno di varie trasmissioni sulle 3 reti generaliste. Un'accusa pesantissima mossa dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni all'indirizzo della televisione pubblica. Non a caso la multa, 1,5 milioni, non ha precedenti per entità. A questo si aggiunge una contestazione che non ha portato a sanzioni ma una diffida sul sistema della pubblicità. In questo secondo caso, Agicom, si legge in una nota, contesta alla RAI il mancato rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza in relazione al pricing effettivamente praticato nella vendita degli spazi pubblicitari. Insomma, poca trasparenza in un contesto in cui sul tema della pubblicità Mediaset ha più volte alzato la voce contro la RAI. Il colpo più duro è arrivato dalla delibera che ha portato alla sanzione da 1,5 milioni approvata la maggioranza, però con la contrarietà sulla sanzione tra i commissari di Mario Morcellini e l'astensione di Francesco Posteraro, che ha ritenuto le violazioni non di gravità tale da richiedere l'irrogazione di una sanzione. I dettagli si conosceranno al più tardi martedì, leggiamo, ma le contestazioni non riguardano il tema dei minutaggi previsti dalla par condicio, quanto piuttosto singole trasmissioni. Ad esempio, Uno Mattina in Famiglia di sabato 25 gennaio con Tiberio Timperi, che con quella che voleva essere una battuta, si è rivolto a un concorrente calabrese dicendo: se non ti aiutiamo andremo a fare i piloni della Salerno-Reggio Calabria. E poi ci sono altri esempi, noi però ci dobbiamo fermare, adesso c'è GR24, ci ritroviamo alle 8:30 con Si può fare.